24. La storia. Io sono convinta che l'idea di perestroica sia nata dal rapporto che c'era tra i miei genitori, dal loro atteggiamento nei confronti della vita. Penso che questa sintonia morale sia stata molto importante per loro. La storia di questa famiglia è tragica. Tragica come quella degli Zar. Ma è anche figlia di tempi completamente diversi. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia d'amore tra Mikhail e Raissa Gorbaciov, una storia appassionante iniziata all'epoca di Stalin che farà da sfondo alla fine dell'Unione Sovietica. Figlio di un contadino di una remota provincia, Gorbaciov arriva a Mosca a 19 anni e mentre studia legge nella prestigiosa Università di Stato si iscrive al Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Ed è proprio all'Università di Mosca, come racconta l'amico Rudolf Kolkanov, che avviene l'incontro che cambierà la sua vita. Nella stanza che dividevamo alla casa dello studente eravamo già in 15. Poi si presentò Mikhail, un tipo del tutto normale, altezza media, capelli scuri, occhi marroni, la valigia e una borsa piena di roba da mangiare. Mi chiamo Mikhail Gorbaciov, vengo da Stavropol. Così disse. Allora, qual è il mio letto? Mikhail concentrava tutte le energie sullo studio. Diceva, compagni, per me niente ragazze, niente amorucoli. Lo studio viene prima di ogni altra cosa. Bisogna imparare, proprio come faceva il compagno Lenin in gioventù. Sono nella mia stanza a studiare mentre gli amici sono andati a ballare. A un certo punto entra Volodya Lieberman e mi dice: Mishka, c'è una ragazza bellissima. E io: e allora? Non ne abbiamo già un mucchio qui all'università? Ma Lieberman insiste. Ti dico che questa è davvero speciale. Alla fine andai con lui. E fu così che la conobbi. Mishka diventò improvvisamente tutto rosso. Subito. Insomma, che dire, fu davvero un vero amore a prima vista. Quella bellissima ragazza si chiama Raissa Titarenko, anche lei di origini umili. Il padre di Raissa, primo di 3 figli, lavora per le ferrovie dello Stato in Siberia e viene internato per anni in un lager per aver espresso delle idee giudicate poco ortodosse dal regime stalinista. Per far sopravvivere la famiglia, la mamma di Raissa è costretta a grandi fatiche. Raissa, da parte sua, è intelligente, ambiziosa, studentessa modello, iscritta alla facoltà di filosofia a Mosca, ma soprattutto non è come le altre ragazze che vengono dalla provincia. Raissa sembrava in tutto e per tutto una ragazza di città, anche se veniva da molto lontano. Esternamente non si vedeva. Era molto colta ed esercitava un grande ascendente su Gorbaciov. Sebbene ancora giovane, Raissa aveva quello che potremmo chiamare un fascino metropolitano e Gorbaciov ne era molto attratto. Per circa 6 mesi non andammo al di là del tenerci per mano. Proprio così. E abbiamo continuato a camminare così, mano nella mano, per il resto della vita. La gente spesso mi chiedeva, perché la tieni sempre per mano? E io rispondevo, l'abbiamo sempre fatto, perché dovrei smettere ora di punto in bianco. Era Mikhail Gorbaciov. Il 25 settembre 1953 Mikhail e Raissa sono marito e moglie. Ma una volta laureato, Gorbaciov non riesce a trovare lavoro a Mosca. Accetta allora un posto da piccolo funzionario di partito nella sua provincia di origine, Stavropol. Raissa rinuncia alla propria carriera. Se vuole rimanere accanto al marito, non ha altra scelta. Entrambi sono costretti a tornare all'isolamento della provincia da cui erano partiti. Fu come tornare indietro di qualche secolo. Certo, io già conoscevo quella realtà. E alla fine anche Raissa si abituò. C'erano i vagoni merci con il riscaldamento. Ricordo quelle vecchie case. Il nostro primo appartamento era di 11 metri quadrati, pieno di spifferi. Poi potemmo trasferirci in un bilocale. Ce lo assegnarono quando nacque nostra figlia. Era Mikhail Gorbaciov. Quelli sono forse gli anni più felici insieme a Raissa. Lontano dagli intrighi di palazzo, di Mosca, possono fare quello che più amano, stare molto tempo insieme. Ma soprattutto, proprio nelle file del partito della provincia russa, la coppia inizia ad avvertire la debolezza del sistema. Marito e moglie sono naturalmente ortodossi e fedeli alla linea del partito, ma sono anche sempre più insofferenti. Per fare dei cambiamenti bisogna avere potere e Gorbaciov allora continua la sua scalata nelle gerarchie del Partito Comunista Sovietico. Ce ne parla Gheorghi Priakin, consigliere di Gorbaciov. Ricordo ancora che ogni volta che Gorbaciov parlava in pubblico, Raissa puntuale si metteva davanti a lui e non gli toglieva mai gli occhi di dosso. Ascoltava sempre con molta attenzione tutto quello che diceva, come se Mikhail stesse camminando sulla fune o come quando guardi tuo figlio che compie i primi passi. Sai bene che non puoi sorreggerlo perché deve imparare a camminare con le proprie gambe, ma allo stesso tempo vuoi dargli tutto il sostegno morale che puoi e quindi lo fissi rapito. Mikhail Sergeyevich, ci congratuliamo. Grazie, grazie. Il lavoro non lo abbiamo concluso lì. Il canale, ma lo concludiamo, ma certo. A partire da... Il segretario generale Brezhnev ha notato Gorbaciov e lo chiama a Mosca. È il 1979. Non ancora cinquantenne, Gorbaciov è finalmente sull'Olimpo della politica sovietica. Ma è un mondo in cui le mogli dei potenti non hanno alcuna voce in capitolo. Nel novembre del 1982, ai funerali di Brezhnev, Gorbaciov fa le condoglianze ai possibili successori. Ma i segretari generali che si susseguono, tutti della stessa guardia, non restano a lungo in carica. Prima di quanto si immagini, arriva il momento di Gorbaciov. Raissa era una donna ambiziosa. Non era il tipo che si accontentasse di recitare la parte della donna silenziosa e scialba a braccetto di un segretario del comitato centrale o del partito. Io personalmente sono sicuro che sia stata proprio Raissa a spronare il marito ad andare avanti, a puntare verso obiettivi sempre più ambiziosi. In Occidente, Gorbaciov viene indicato tra i possibili candidati alla carica di segretario generale. Quando Margaret Thatcher lo invita a Londra nel 1985, Gorbaciov intende presentare all'Occidente non solo se stesso, ma anche sua moglie. Ce ne parla il consigliere della Thatcher, Charles Powell. Eravamo tutti ansiosi di vedere come fosse. Non conoscevamo sue foto, almeno non ne giravano di buona qualità. Mikhail Gorbaciov parlava con voce squillante nel grande salone, un salone molto british, e capimmo subito che era completamente diverso dagli altri politici sovietici, come diversa era sua moglie. Gorbaciov era sicuro di sé, sorrideva, non era come i leader sovietici del passato, sempre accigliati. Lui non era affatto così, e lo stesso vale per Raissa. Era elegante, vestiva bene. Ricordo ancora che Margaret Thatcher mi disse: «Mi piacerebbe indossare proprio un vestito come quello». Era un abito grigio a righe bianche. Raissa era diversa dalle mogli dei precedenti leader sovietici, che in genere erano grassottelle, imbronciate, silenziose e quasi sempre vestite di nero. Ci accorgemmo subito di essere di fronte a qualcosa di nuovo, di diverso. Non ce l'aspettavamo. Era una nuova generazione di leader sovietici. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un grande amore, quello tra Mikhail e Raissa Gorbaciov. Una donna, Raissa, che accompagna e sostiene la carriera del marito fin dai tempi dell'università. L'11 marzo dell'85 Gorbaciov viene eletto segretario generale del Partito Comunista. L'arrivo al Cremlino di un uomo così giovane, così diverso rispetto alla tradizione, sposato con una donna che non è più una comparsa ma una protagonista della scena politica, non può passare inosservato. Gorbaciov viene considerato un candidato rischioso, viene visto come una persona imprevedibile e moderna. Il tempo darà ragione ai suoi avversari. Con Gorbaciov infatti si apre una nuova era per l'Unione Sovietica e per il mondo intero. Ascoltiamo il racconto della figlia Irina, dello stesso Gorbaciov e dei coniugi Genscher, protagonisti della politica in Germania nello stesso periodo. Era il giorno prima della fatidica decisione. Quando mio padre tornò a casa dal lavoro, uscirono insieme a fare una passeggiata. Papà disse a mia madre che sarebbe stato nominato segretario generale. E le disse pure che avrebbe già deciso di accettare l'incarico, perché il paese non poteva più andare avanti a quel modo. Mia madre sapeva a cosa sarebbero andati incontro, ma era d'accordo con quella decisione. Raissa mi chiese come devo comportarmi. Io le risposi: come ti sei sempre comportato. Non dobbiamo cambiare nulla. Dobbiamo rimanere quelli che siamo. Gorbaciov e consorte si presentano al paese e al mondo. Sì, eravamo una nuova generazione e io ero orgoglioso che Raissa non fosse il tipo di donna che pensa solo a servire il proprio marito. Quando divenne la moglie del segretario generale, tutti d'un tratto si resero conto che esisteva anche Raissa Gorbaciov. Fino a quel momento nessuno si era curato di lei. Si percepiva benissimo che Gorbaciov era un leader sovietico completamente diverso, che avrebbe messo in campo tutto il peso del suo paese. Del resto anche sua moglie era una figura molto forte, con una sua chiara autorità. Man mano che ci siamo conosciuti meglio, ho capito che Raissa non era solo la confidente di suo marito, ma anche un consigliere nelle questioni politiche. Insomma, una persona che aveva una sua opinione sulle cose. Fin da bambina avevo avuto modo di conoscere tutte le mogli dei capi del Cremlino. I mariti non le mostravano mai in pubblico, erano donne formose, ben contente di rimanere a casa. Quando il nostro numero uno si presentò in pubblico con la moglie, tutti pensarono: ma guarda quella che sfacciata. È vero, sì, la gente reagì così. Gorbaciov riceveva lettere in cui lo esortavano a smetterla di mettere così in mostra la moglie. Se bisogno c'è di fare quello sfoggio di guardaroba, certo siamo a livelli infimi di pettegolezzi da portineria, di bazar. Erano i commenti dei giornalisti dell'epoca, tutta la stampa impressionata. Mikhail Gorbaciov è un riformatore che introduce nella politica del suo paese la glasnost, cioè la trasparenza, e la perestroika, cioè la modernizzazione. E il nuovo segretario ha idee ben chiare, mette mano al ricambio della classe dirigente, avvia il decentramento e la liberalizzazione dell'economia e soprattutto inizia il processo di democratizzazione del sistema politico. Per la maggior parte dei sovietici, però, con Gorbaciov le cose anziché migliorare sembrano peggiorare. Neppure i primi passi verso la democrazia eliminano le file per procurarsi generi minimi di sopravvivenza. E per le donne più anziane, glasnost e perestroika significano solo un segretario generale sempre in giro per il mondo accompagnato da una moglie elegantissima. Se solo fosse qui. Lei chi? Raissa Gorbaciov? Qui, Raissa Gorbaciov. Vorrei vedere come se la cava a fare queste file. A me, che sono una vecchia di quasi 90 anni, tocca venire qui tutti i giorni. Mia madre soffriva. Soffriva terribilmente. Quando la gente diceva quelle brutte cose sul suo conto. Ed era una cosa che purtroppo succedeva spesso. Raissa avrebbe dovuto fare più attenzione, mostrarsi più comprensiva e non provocare la gente toccandola negli istinti primari. Che ci potevano fare se non avevano le carte di credito? Cosa potevo suggerire a Gorbaciov? Decidemmo con Raissa che sarebbe dovuta comparire di meno in televisione. Fu una scelta che prendemmo senza sentire il parere di Gorbaciov. Lo avevo detto a mia moglie: non cambierò una virgola. E ho mantenuto la mia parola. Ho mantenuto la mia parola. È stata la seconda perestroica, non meno importante della prima, perché il rapporto tra moglie e marito è fondamentale per qualunque società. Per la Russia, invece, fu una rivoluzione. Sono già arrivati i primi freddi. All'epoca se ne parlava molto e se ne scriveva molto. Colpiva il fatto che una persona che veniva dalla provincia desse lezioni all'intero paese su come doveva vivere. C'era chi diceva che il presidente non si chiamava Mikhail Sergeevich, ma Raissa Maximovna. Una battuta che lo irritava moltissimo e che aveva riflessi negativi anche sull'opinione che si aveva di Gorbaciov. Sì, vorrei domandarle, Raissa Maximovna. È vero che lei ha un'influenza decisiva su Mikhail Sergeevich per quanto riguarda i temi di politica interna ed estera? No. Sa, glielo chiedo. Lui ha un'influenza decisiva su di me. E la prossima volta dirò. Che io, ovviamente non lo so, non potrei dirlo. Ma mi sembra che l'armonia, come dire, l'armonia dipenda dal raggiungimento di un equilibrio. Posso solo dirle che fra noi è cominciata nel 1953 e che come è cominciata così prosegue. Tutto il resto è un problema vostro, se volete scavate pure. Ottobre 1989. La Germania Est festeggia il suo 40° anniversario. Nessuno immagina neanche lontanamente che sarà l'ultimo. I Gorbaciov arrivano a Berlino Est per le celebrazioni, ma i loro auguri non sembrano del tutto sinceri. Lungo le strade Mikhail Gorbaciov viene accolto con un entusiasmo e un'euforia che mai erano stati dedicati ad un compagno comunista. Sul Caucaso le delegazioni della Repubblica Federale Tedesca e dell'Unione Sovietica si incontrano per discutere dell'unificazione della Germania. Per i tedeschi è un sogno, ma quello che percolle è un vero trionfo per il segretario generale Mikhail Gorbaciov, che nello stesso anno, nel 1989, viene eletto presidente dell'Unione Sovietica, si trasforma in un vero e proprio campo minato. Sentiamo Genscher, all'epoca ministro degli esteri della Germania Ovest. La signora Gorbaciov era presente ed aveva ben chiara l'enorme importanza di quelle decisioni. Mentre ci recavamo a fare la solita foto di gruppo finale, lei d'un tratto mi prese la mano, mi tirò un po' in disparte e disse: lei si rende conto di quanto siano delicate e importanti le decisioni prese da mio marito e di che cosa significhi per lui tutto questo? Perciò vogliamo essere sicuri che anche la Germania tenga fede agli obblighi che si è assunta. Era una moglie che da una parte si preoccupava per il marito, ma che dall'altra era perfettamente consapevole di cosa avrebbe comportato il processo storico che era stato avviato e delle reazioni che tale decisione avrebbe scatenato negli ambienti più intransigenti del Cremlino. Ancora oggi in Occidente Gorbaciov è molto amato, soprattutto in Germania. Molti continuano a sentire gratitudine nei suoi confronti. Lo vedono come un eroe che ha contribuito alla caduta del muro di Berlino e a riunificare il popolo tedesco. Insomma, a porre fine alla guerra fredda. Nell'Unione Sovietica le cose invece sono molto, molto diverse. 1991. In tutta l'Unione Sovietica cresce il malcontento nei confronti del segretario generale. Gorbaciov deve fare i conti con la nuova democrazia che lui stesso ha voluto. La protesta che un tempo veniva soffocata ora può essere espressa liberamente. Il popolo ora pretende una vita migliore. Diverse repubbliche chiedono l'indipendenza e poi c'è anche chi ha nostalgia dei vecchi tempi quando tutto era ordinato e prevedibile. Le parate degli anni passati si trasformano in cortei di protesta. Ce ne parlano i consiglieri della famiglia Gorbaciov. Da Gorbaciov l'Occidente ha ottenuto tutto quello che voleva. Mentre in Russia nessuna delle speranze del popolo è stata soddisfatta. Nessuna. Le promesse sono state tante, ma non è stato fatto niente, niente. Quando i frutti della perestroika si rivelarono totalmente diversi da ciò che la gente si aspettava, allora cominciarono a cercare un capro espiatorio. L'establishment però non osava puntare il dito contro Gorbaciov. E così cominciarono, in un primo momento, molto cautamente, ad addossare in maniera subdola tutta la colpa su Raissa. Sono convinto che questo malcontento sia stato anche pilotato ad arte, forse dallo stesso KGB. Su Raissa iniziarono a circolare dossier e documenti. Ma il vero obiettivo da colpire era lui, Gorbaciov. Criticavano lei per far cadere lui. La vecchia guardia dell'Unione Sovietica fa muro. Tutte queste novità vengono guardate con sospetto nell'ala più conservatrice del KGB. Qualcuno comincia a tramare nell'ombra, a fare piani. L'obiettivo è quello di ristabilire il regime comunista, il regime dell'ortodossia. Gorbaciov quindi deve essere eliminato, con lui la moglie Raissa, figura sempre più scomoda per la dirigenza sovietica. Ce ne parlano Anatoly Chernayev, il segretario di Gorbaciov, e la figlia di Mikhail Raissa, Irina. Giungevano segnali che stava per accadere qualcosa. Queste voci erano arrivate persino al presidente Bush, come noto, e Bush le trasmise a noi. Ma Gorbaciov, quando glielo dissi io e anche quando lo avvertì Kovalyov dal Ministero degli Esteri, decise di ignorarle. Certo, andarsene in Crimea in una situazione del genere. È vero che pensava di stare lì solo qualche giorno per finire di preparare il nuovo trattato dell'Unione. Gorbaciov era convinto che non ci sarebbe stata nessuna catastrofe. E invece ci fu, 2 settimane dopo la sua partenza. Non è un periodo che amo molto ricordare. Ci sono delle cose nella nostra vita, e non sono poche, che cerco semplicemente di cancellare dalla mia memoria. Foros è una di queste. Mosca, 18 agosto 1991. Mentre i carri armati entrano nella capitale, il presidente e la sua famiglia sono in vacanza a Foros, in Crimea. Quanti si oppongono alle riforme hanno deciso di salvaguardare con la forza il potere del Partito Comunista. Mix 24. La storia. Bentornati su Mix 24 con la storia di Mikhail Raissa Gorbaciov. Nella notte tra il 18 e il 21 agosto del 91, i conservatori legati al vecchio Partito Comunista, guidati da qualche generale dell'esercito, tentano il colpo di Stato. A organizzarlo anche amici e confidenti del segretario generale del Partito Comunista Sovietico, che adesso però ne chiedono le dimissioni. Mikhail e Raissa Gorbaciov vengono messi agli arresti nella loro casa a Foros in Crimea. La residenza estiva allora si trasforma in una prigione. A raccontarlo la figlia Irina. Avevamo i mitra puntati addosso. Non potevamo fare nulla. Non avevamo modo di contattare nessuno né di negoziare. Fu la prima volta che avemmo paura per la nostra vita. Ma la paura più grande, forse, era che ci separassero, che per esercitare pressioni su mio padre minacciassero di fare del male a me o a mia madre. Gorbaciov era furioso, eppure restò assolutamente calmo. Come osano mettermi le mani addosso? È inaudito che osino mettere le mani addosso a me, al segretario generale. Per il partito bolscevico il segretario generale è sempre stato qualcosa di sacro. Era il segretario di Gorbaciov, Anatoly Chernayev. Raissa viene colta da una crisi nervosa. In un drammatico messaggio in videocassetta, Gorbaciov chiede aiuto ai suoi connazionali, ma il nastro non uscirà mai dalla Crimea. Tuttavia, c'è ancora qualche barlume di speranza. Il popolo, guidato dal presidente russo Boris Yeltsin, protesta contro il colpo di Stato. Gorbaciov diventa un eroe. Dopo 4 giorni di prigionia, la famiglia può finalmente tornare a Mosca. Ma Gorbaciov ancora non si rende conto che il potere gli sta inesorabilmente sfuggendo di mano. Ad accoglierci trovammo alcune persone. Erano venuti quelli che volevano confessare i loro peccati e anche qualche amico vero. Ma non erano tanti. Saranno stati una 50. Ti ricordo che lo vidi lì, con quella sua giacchetta. Sembrava che forse voleva apparire calmo. Ma in realtà era sconvolto. Raissa poi era visibilmente esausta. E non riusciva a nasconderlo. Aveva un'aria malata. Da allora mia madre ha avuto diversi infarti, più una malattia agli occhi. Diventò quasi cieca. La cura che fece all'ospedale del Cremlino fu pesantissima. Sì, probabilmente era cambiata. Si fidava ancora meno delle persone. Dopo Foros distrusse tutti i suoi documenti personali, tutte le lettere di papà. Aveva preso questa decisione proprio perché temeva che una cosa del genere potesse succedere di nuovo, e cioè che degli estranei andassero a frugare tra le sue cose. Era Irina, la figlia di Mikhail e Raissa. Gorbaciov è sempre più isolato. Immediatamente dal giorno successivo al suo rientro a Mosca e evidenze che Yeltsin non combatte per lui ma per se stesso. Gorbaciov vuole fermare il declino dell'Unione Sovietica, ma Yeltsin ostacola ogni sua decisione e addirittura lo umilia in pubblico. Boris Nikolaevich mi ha consegnato in questo momento, appena ci siamo incontrati, un breve protocollo delle sedute del Consiglio dei Ministri. Ancora non l'ho letto. Allora leggilo. Leggilo adesso. D'accordo con le altre repubbliche, Yeltsin decide di fondare una federazione indipendente di stati. È la fine dell'Unione Sovietica e dell'era Gorbaciov. Il presidente dell'Unione Sovietica è costretto ad andarsene. La sua nazione non esiste più. Abbiamo ancora 2 minuti. All'apparenza ero calmo, ma dentro di me c'era una tempesta. Riguardando il mio ultimo discorso, quello del 25 dicembre, si vede chiaramente. Non ero d'accordo e me ne andavo per una questione di principio. La mia calma si reggeva sul filo della tensione nervosa. Cari compatrioti e concittadini, con piena fede in voi, nella vostra saggezza e nella vostra forza di spirito, auguro a tutti il meglio. Il giorno di Natale del 1991, il giorno in cui Gorbaciov dette le dimissioni, lo chiamai dal mio ufficio. Mi disse che quella sarebbe stata l'ultima telefonata che avrebbe ricevuto al Cremlino. Finisco di parlare con te e me ne vado. Mi disse proprio così. Subito dopo, i Gorbaciov vennero in visita qui in Germania. Ovviamente parlammo apertamente anche delle tante delusioni personali che avevano vissuto. Ero convinto che quello che avevo fatto fosse necessario per la Russia e per il mondo. Ma Raissa non riusciva ad accettare che la gente non lo capisse. Soffrì molto nel vedere così poca comprensione nei miei confronti. Questa cosa la tormentava. Il 25 dicembre del 91 Gorbaciov rassegna le sue dimissioni da capo dello Stato. La coppia vive anni molto difficili. Raissa è molto provata dall'esperienza del tentato golpe. Si ritira definitivamente dalla vita pubblica, mentre il marito non ha più alcun peso politico. Come ultima umiliazione, Yeltsin diniega addirittura una pensione adeguata. Ma Gorbaciov non intende uscire di scena. In un tentativo disperato contro tutto e contro tutti per riscattare i valori della libertà e democrazia per cui ha combattuto durante la Guerra Fredda e contro il regime sovietico, prova a candidarsi alle elezioni presidenziali. È il 1996. A raccontarlo i collaboratori e la figlia. Raissa mi telefonò per chiedermi aiuto. Alexander Nikolaevich mi disse: devi convincerlo a non candidarsi. Le risposi: ma naturalmente che non deve candidarsi, ma come faccio a convincerlo? Ne ho parlato poco tempo fa con Irina e anche lei mi ha confermato che era assolutamente impossibile fermarlo. Padre e io non condividevamo la sua decisione. Sapevamo che gli sarebbe costata molto. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, una strada fatta di apertura e di libertà per tutti. Mi stia a sentire! Lei ha distrutto il Partito Comunista, proprio così! Ha distrutto il Partito Comunista! Ma no, non dica questo! Lei non può dirlo! risponda a questa domanda: chi ha tradito chi? È stato Gorbaciov a tradire il partito o il partito a tradire Gorbaciov? Un momento, aspetti un momento, solo due minuti, mi conceda due minuti soltanto. Per questo io e mamma eravamo contrarie, perché non volevamo che si sottoponesse di nuovo a tutto quel calvario. Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni presidenziali. Oggi per la Russia è difficile fare qualsiasi previsione per il futuro. Visto che Mikhail Sergeyevich ha preso questa decisione, che ha fatto questa scelta, io, in quanto sua moglie, sono e sarò al suo fianco. Ma il risultato di questa disperata esibizione di forza è scoraggiante. Mikhail Gorbaciov ottiene lo 0,5% dei voti. I russi lo hanno dimenticato e i più anziani lo associano al tramonto dell'Unione Sovietica come superpotenza. Gorbaciov, dicono, ha svenduto il suo paese. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Gorbaciov perde clamorosamente le elezioni presidenziali del 96. Ha svenduto il suo paese, di questo lo accusano molti sovietici, che sembrano non sapere che farsene di maggiore libertà a scapito dell'assistenza statale e quindi della sicurezza economica. Un atto di accusa durissimo che segna il tramonto dell'era Gorbaciov. Intanto Raissa sta molto male. Nel luglio del 96 due specialisti tedeschi vengono chiamati a Mosca per un consulto sulla salute di Raissa. Inizialmente la diagnosi è incerta, al marito viene consigliato di portare la donna in Germania per esami più approfonditi. Raissa lascia il paese, ma né lui, né il marito, né il medico Thomas Buchner possono sapere che quello sarà l'ultimo viaggio di Raissa. Gorbaciov disse: adesso andiamo a Münster per curare Raissa. Andrà tutto bene. Quindi lasceremo Münster. Sì, lasceremo Münster e torneremo a casa insieme. Io e Irina le siamo stati accanto giorno e notte. Non l'abbiamo mai lasciata sola. La dovevo sostenere, qualche volta anche girare. Solo una volta mi ha chiesto: e allora Gorbaciov, è dura? E io le ho risposto: molto. Poco dopo pervenimmo a una chiara diagnosi. Una diagnosi che non era affatto buona. I primi sospetti di leucemia, purtroppo, si erano rivelati esatti. E sapevamo anche che, tra tutte le forme di leucemia acuta, quella era la peggiore. Gorbaciov sapeva come sarebbe finita. E sapeva anche che le probabilità di guarigione erano relativamente scarse. Lui e la moglie si sono aperti l'uno con l'altra. Hanno ripercorso tutta la loro vita, consapevoli che di lì a poco sarebbe potuto accadere il peggio. Non hanno mai perso la speranza, ma conoscevano perfettamente la gravità della situazione. Tutto il mondo partecipa al loro dolore. Perfino dalla Russia arriva un'ondata di solidarietà. Solo sul letto di morte, infine, Raissa sembra ricevere quell'affetto che il suo popolo le ha sempre negato. È il 20 settembre 1999 quando, colpita da una leucemia rara, Raissa Gorbaciova muore. Gli ultimi giorni, quando mi resi conto che ormai c'eravamo, che era tutto finito. I medici mi dissero: cerebralmente morta, ma il cuore continua a battere. Io li implorai: fate qualcosa. Fate qualcosa, e uscì dalla stanza mentre mia figlia rimase dentro. Le dissero qualcosa, lei scoppiò a piangere e loro insieme a lei. Telefonai a Gorbaciov per il suo compleanno. Chiamai prima la fondazione, poi la sua dacia. Dopo qualche squillo, mi rispose lui personalmente. Gli chiesi prima di tutto come stava, poi le solite domande di rito. E lui mi disse: che senso ha continuare a vivere quando non hai nessuno per cui vivere? E aggiunse: sai, io continuo a parlare con Raissa. Onorevole Luigi Colaiani, lei è stato mandato da Achille Occhetto in pieno agosto, quando c'è stato il colpo di Stato contro Gorbaciov che abbiamo raccontato. Che Mosca ha trovato? Prima di tutto mi ha molto stupito il fatto che l'apparato di controllo, diciamo, anche l'aeroporto e poi più in generale, era completamente nel panico, perché io addirittura sono entrato in Unione Sovietica con un passaporto dell'Unione Europea che non aveva nessun valore, non aveva corso in Unione Sovietica, e questo mi ha sorpreso moltissimo. Quindi un caos generale. Un certo caos generale. Poi qualche giorno dopo, quando Gorbaciov ha fatto un comizio sulla Piazza Rossa salendo su la ribalta di un camion, insomma un camion con la ribalta buttata giù, io sono riuscito a salire su questa ribalta dietro Gorbaciov passando tre o quattro controlli, che significa che veramente non c'era più nessun controllo. Ecco. Ma era già una mosca contro Gorbaciov e pro Yeltsin? Guardi, sicuramente Gorbaciov aveva perso la sua presa, perché durante questo comizio sulla Piazza Rossa che ho appena ricordato, questo comizio fu tremendo, perché Gorbaciov alzava i toni, cercava di ritrovare un legame con la folla. La piazza c'era tutta Mosca nella Piazza Rossa. Beh, la piazza alla fine non fece neanche un applauso, praticamente si girarono e se ne andarono. Mi sembrò a me un segno di grandissimo distacco. Ma voi avete creduto in Gorbaciov? Assolutamente sì, del resto lui è stato abbastanza fondamentale, ha fatto un mutamento radicale, insomma, quindi noi eravamo molto a sostegno di Gorbaciov. Cioè. Ma allora che cosa non ha funzionato nella sua politica? Ma guardi, secondo me naturalmente sono più cose, però una di queste certamente è stata quella di pensare di poter riformare il sistema, il quale era un sistema rigido e non era riformabile, e oltretutto anche di conservare il Partito Comunista, cosa che non era più possibile, perché era ormai quello un impedimento anche al cambiamento. Perché sciogliendolo... Avrebbe davvero buttato per aria gli apparati, insomma. Ecco, gli apparati i quali in fin dei conti ancora tenevano in mano il controllo del paese, più o meno. Perché era più amato in Occidente che in patria? Ma in Occidente perché aveva... per Occidente si intende naturalmente non soltanto la sinistra, ma si intende l'Occidente. Beh, l'Occidente vedeva indebolirsi un'entità, l'Unione Sovietica, che era stata per tanti anni un contraltare, una forza di confronto in certi momenti anche preoccupante, quindi era favorevole al fatto che Gorbaciov, diciamo, mettesse in discussione tutto questo. Onorevole Colaiani, lei 20 anni dopo è tornato per fare un reportage per la TV italiana sui protagonisti di quei giorni decisivi per l'Unione Sovietica. Qual è il testimone che l'ha colpita di più? Beh, naturalmente Gorbaciov, col quale dovevo avere un colloquio di un quarto d'ora e poi ci sono stato un'ora e mezza, insomma. Però anche la colpì di Gorbaciov? Ma di Gorbaciov mi colpì il fatto che lui in fin dei conti rifletteva sulla sua vicenda, insomma, qualcuna delle osservazioni che ho fatto io probabilmente se ne stava facendo anche lui stesso, ecco. E poi ho incontrato uno dei golpisti, due veramente, uno di questi aveva anche fondato un partito, purtroppo non mi ricordo il nome, e ragionava come se fossimo ancora nella vecchia Unione Sovietica, era molto impressionante. Oggi Putin sta nuovamente costruendo una Russia autonoma e imperiale. È un destino inarrestabile per la Russia quella di avere uno zar che sogni una nazione autonoma e potente? No, naturalmente non è un destino ineluttabile. Che la Russia sia autonoma e anche potente o forte, questo è, diciamo, un desiderio legittimo, che questo si debba realizzare in forme, diciamo così, lei ha detto uno zar, ecco, io penso che questo sia un aspetto negativo di tutta la vicenda. Grazie onorevole Luigi Colaianni. Grazie a voi. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix 24.